stai? Ti nascondi come mai? Ti sei accorto che sei nudo e crudo? Ti sei accorto che hai toppato in pieno? Detto dal principio, molto avvisato, mezzo salvato, ma tu hai ignorato e continuato, sgretolando tuo avvenire. Cicatrici con i tatuaggi. Vivere in te è un sacrificio. Stanchi di starti dietro. Scaviamo in fondo fino al midollo. Svegliamo i segreti per farti cambiare. Suscitati, mondo, vergognati, ti torna sui tuoi passi ora. Mondo, vergognati, hai la speranza davanti. Mondo, vergognati, non stare con le mani in mano. Mondo, vergognati, stai fermo, non si arriva mai. So che mi state ascoltando, so che avete paura di noi, paura di cambiare. Adesso appenderò il telefono e farò vedere a tutta questa gente quello che volete che vedano. Quello che accadrà dopo dipenderà da voi.